21 su Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Inizia prove tecniche di trasmissione anche per oggi 27 ottobre del 2021. www.ondarossa.info è il riferimento web per quanto riguarda lo streaming. E questa sera già vi dico che 25 o'clock non andrà in onda. Qualche rapido saluto, Maya e Nicola Locci naturalmente dalla Sardegna, quest'ultimo come Hexagonal e Stigmate. Alberto Clipper di MDMA, Dario Righi e Sara K. O. Fontana di Progetto No Name, Nadir Persegona di Os, Daniele Santa Giuliana di Test in Volte, ma anche come Daniele Santa Giuliana. Salutiamo Oders con Massimo Mascheroni, Antonio Maglione, Doriana Panico da Taranto, il medico della peste, Enrico Cerrato di Petrolio. Un grosso abbraccio Like Week, realtà storica ambient qui di Roma, Francesco Cornello a Bergamo, in Val d'Aosta Jean-Claude Aubertot. Naturalmente vado a ricordare sempre la possibilità di sottoscrivere per Radio Onda Rossa andando sul sito e scegliendo le modalità varie di adesione per sottoscrivere a questa radio, che da lontano 1977 è completamente autogestita. Quindi, per esempio, il conto corrente postale che è 61 80 40 01, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Via Volsci 56 00185 Roma. Comunque sul sito della radio ci sono i vari riferimenti più precisi. Allora, lo abbiamo nominato ad inizio trasmissione, Daniele Santa Giuliana, uno dei talenti più interessanti della scena italiana da molti, molti, molti anni. E con il suo nome di battesimo è uscito un nuovo lavoro dal nome La Cupa. Daniele Santa Giuliana si muove tra ambient, naturalmente retro industrial e soprattutto influenze, ritengo, dei Coil e dintorni. Quindi un panorama musicale molto accattivante e interessante per gli ascoltatori affezionati di questo programma. Questo ultimo lavoro si chiama La Cupa, diviso praticamente in due capitoli. Cominciamo a conoscere il primo capitolo e le prime due tracce dal nome Casa delle Luci e La Cupa, che quindi è la title track.

Le increspature Dark Ambient, irrorate però di schegge noise industriali. Elementi fusi e vincenti da Daniele Santagiuliana. Questo è La Cupa, album uscito il 3 settembre, un album che ovviamente conosceremo meglio anche nelle prossime settimane. Saluto una new entry qui di Prove Tecniche, Mosquita de Miramar, che al dispetto del nome è italiana, anche se è trapiantata in Olanda, e che presto ascolteremo con il suo progetto musicale sul versante elettro dal nome Feraglia Planizia. La salutiamo dunque se ci sta ascoltando proprio in quel dell'Olanda, non so se Amsterdam o altra città. Un saluto invece a Alessandra qui a Roma. E Arianna e Flavio di Noise Cluster. Sentite queste belle atmosfere che mi rimandano ai Coil più malati. I Coil per tutti noi sono stati un grosso amore. E si avvicina l'anniversario della morte di John Balance, quindi sarà gioco forza andarci ad ascoltare magari un passaggio dei Coil stessi. Salutiamo Daniele Santagiuliana, ennesimo artista di valore proveniente dal Veneto. E andiamo da Lingua Ignota con Sinner Get Ready, un album che personalmente ho apprezzato dopo il quinto, sesto ascolto. Un album che forse è leggermente più accessibile rispetto al passato, ma che conserva il giusto rigore, confermato anche da queste due tracce, Pennsylvania Furnace e The Sacred Lineament of Judgment. Me and the dog, we die together. Within the Lord I cast off all my earthly bonds. There is victory in Jesus. I watched you. Oh, credo letteralmente da brivido. Questi due estratti da Sinner Get Ready, ultimo lavoro di Lingua Ignota. Che naturalmente è un progetto solista di Christine Heiter, proveniente dagli Stati Uniti, da Rhode Island. Tanta acqua è passata dall'esordio Let the Evil Hold His Own Lips Cover Him, i cui proventi andavano per il sostegno delle cause per femminicidio negli Stati Uniti. E in questi anni ha stampato 3, 4, 5 album da sola, ma anche in collaborazione con altri artisti. Vengono scomodati illustri paragoni che mi sento anche di condividere, sia paragoni vecchi con i Velvet Underground, soprattutto con le parti più intimiste di Nico, la vecchia cantante dei Velvet. Aggiungo invece da un altro versante di Amanda Gallas, nelle parti più noise gli Swans, ma anche Anna von Auswolf in certe fughe di organo e di voce. Risaluto dunque Moschita de Miramar, che abbiamo scoperto chiamarsi Simona, che vive a Harlem in Olanda, e ci fa piacere che ci sentino anche da così lontano. Lei credo non sia neanche la prima volta che ci ascolta, ci fa piacere. Sinner Get Ready, anche questo lo ascolteremo la prossima settimana. Intanto saluto anche Valerio Michetti della Grazia Obliqua, grossa realtà Dark Wave qui di Roma, e Umanima, un futuro progetto industrial che presto andremo ad ascoltare. Abbiamo dunque citato anche gli Swans di Michael Gira a proposito delle eventuali influenze rispetto a Lingua Ignota, e quindi ci andiamo anche ad ascoltare un vecchio lavoro degli Swans, Soundtracks for the Blind, come ho già detto un lavoro del 1996 che portava lentamente alla fine della prima fase artistica di questo progetto newyorkese, che verrà poi ripreso nel 2010 dallo stesso Michael Gira con una nuova formazione. Attualmente anche c'è una sospensione dell'attività, con anche qui un stravolgimento della band. Dal primo CD di questo Soundtracks for the Blind ci ascoltiamo Animus. Fear is nothing. Dreams. Animus andava a chiudere questo primo CD di Soundtracks for the Blind per gli Swans di Michael Gira. Un inizio quasi soffice che poi è rapidamente evoluto verso sonorità più malate e che già facevano intravedere in nuce la psichedelia associata al noise che poi sarebbe stata ripresa molti anni dopo dagli Swans. Un paragone qui che mi ha colpito, che adesso che ci penso ci potrebbe anche stare, il fatto di aver paragonato certe situazioni vocali di Michael Gira a Johnny Cash, anche se poi Michael Gira è decisamente più cupo. Coincidenza vuole che ieri stavo sentendo Heart di Nine Inch Nails, rifatta proprio da Johnny Cash in una versione assolutamente devastante che vale anche l'originale. Salutiamo Rico Ponzoni di Sokun Shibutsu Project, una interessante realtà insieme a Massimo Mascheroni. Wunus Aylin, l'ottimo industrial piemontese di Wunus Aylin, li salutiamo. Immancabile nelle nostre selezioni è un riferimento a Raffaele Pezzella e la sua etichetta Nice Play Sounds Group. Teniamoci forte perché questa sera incominciamo un lungo viaggio che ci porterà attraverso una decina e più di tracce in India. In questa compilation dal nome Indian Music Survey Anthology of Exploratory Music from India. Un universo ai più sconosciuto, ma assolutamente affascinante, l'unione di atmosfere etniche indiane già di per sé belle, almeno secondo i miei gusti, con poi le sollecitazioni più sperimentali e cupe. Quindi 13 tracce di artisti, per quanto mi riguarda, che non conosco, e cominciamo con Surabhi Saraf con questa Illuminen. Thank you. abbiamo cominciato a conoscere questa non ultima ma tra le ultime fatiche di Raffaele Pezzella, incessante e instancabile cesellatore e ricercatore di altre sonorità in tutte le parti del mondo, in ogni angolo del mondo. Pezzella è andato ad esplorare e a tirar fuori dei talenti decisamente nascosti, tanti talenti in questa compilation Anthology of Exploratory Music from India. E questa sera ci siamo ascoltati Surabhi Saraf con Luminen. Come ogni compilation che si rispetti, i suoni saranno vari. Da questi viaggi effettivamente quasi kraut rock di Surabhi Saraf fino a atmosfere più ruvide e sperimentali, ma è il bello anche delle compilation di Raffaele Pezzella. Immaginiamo la complessità di una terra come l'India, complessa culturalmente, piena di suoni e culture così diverse. E quindi ci sarà anche molto ritualismo. Ed atmosfere ritualistiche le potremmo anche apprezzare in un vecchio lavoro invece dei romani New Procession Order. Qui alle prese con At War with Christ and Satan, un lavoro del 2017 che uscì anche attraverso la celebre Old Europa Café, una splendida realtà italiana. E quindi ci ascoltiamo Canticum Apocalipsis e Standing Amid the Ruins, parte 2, After the Deluge. Once more.